In primo piano. Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi hanno aperture leggermente diverse. Le fotonotizie, le potete immaginare, sono dedicate allo sport, ma le aperture sono un po' diverse, anche perché, come spesso capita di domenica, ogni giornale magari si è assicurato un'intervista particolare e su quella titola. Cominciamo dal Sole 24 Ore, però, perché il 16 giugno purtroppo è il primo appuntamento con il primo appuntamento fiscale importante di questa seconda metà dell'anno. Entro il 16 giugno, primo appuntamento con i versamenti delle imposte 2016, casa, redditi e IRAP. E il gettito previsto solo appunto per il 16 giugno è di 40 miliardi. Dalla sola IMU, la tassazione sulla casa, e la TASI, 10 miliardi. Poi sappiamo che da quest'anno l'abitazione principale è esente. Trovate tutto alle pagine 2 e 3. In prima pagina sulle 24 ore anche la novità che è arrivata ieri con l'ok della Consob all'offerta della Caro Communication per l'acquisto dei RCS. Sapete che è una cosiddetta OPS, cioè un'offerta pubblica di scambio. Non viene Caro Communication non compra tecnicamente RCS con della liquidità, ma c'è uno scambio di azioni. Quindi per ogni, questo è il dato finale, per ogni azione RCS verrà data 0,12 azioni di Caro Communication. L'offerta partirà il 13 giugno per concludersi l'8 luglio. Vedremo come andrà a finire, perché sappiamo che sul tavolo c'è anche un'altra offerta, quella della cordata guidata dal finanziere Bonomi. In prima pagina anche l'analisi di Luca Ricolfi sulla produttività, definita un sonno durato 20 anni. Lo trovate, l'articolo inizia in prima pagina e lo trovate poi a pagina 20. La prima pagina del Corriere della Sera, come vi dicevo, due fotonotizie. Da una parte la vittoria del Real Madrid ieri nella finale di Champions League a Milano, quindi una foto di Cristiano Ronaldo che si toglie la maglietta esultando, e subito sotto invece, e lo avete sentito anche nei GR ma già fin da ieri, il trionfo di Nibali al Giro d'Italia. Un'apertura diversa, quindi, dicevamo, in questo caso è sugli sbarchi. Il Corriere della Sera parla di 13.000 in Italia e di sbarchi di immigrati, solo 180 in Grecia. E poi c'è anche il naufragio, per questo naufragio si parla di 400 dispersi. Vi dicevo, ogni giornale oggi ha un'intervista importante, e il Corriere della Sera intervista al ministro delle Infrastrutture Delrio. Il titolo: i treni merce di notte sui binari dell'alta velocità, una delle, appunto, dei temi che Delrio ha toccato in questa intervista concessa a Lorenzo Salvia, che poi trovate a pagina 7 del Corriere della Sera. La Repubblica ha un'unica foto, in realtà sportiva, non la Champions, ma il Nibali, che è tutto rosa con un mazzo di fiori anche incartato in una carta rosa. Di fatto ieri ha già conquistato il Giro d'Italia, e quindi la foto con il sorriso incredibile di Nibali, il sorriso bellissimo di Nibali. Anche in questo caso però c'è un'apertura, di fatto un'apertura sui migranti. Qui la Repubblica parla non di 13.000 ma di 12.000, e poi centinaia di morti. L'intervista di Repubblica è a Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, che se la prende con l'atteggiamento della Turchia, perché non starebbe rispettando gli accordi presi per aiutare a gestire i profughi che arrivano, appunto, che attraversano il confine turco e che arrivano, sappiamo, soprattutto dalla Siria. E poi vi segnalo in prima pagina sulla Repubblica un intervento del direttore Mario Calabresi su Roberto Saviano, che in un modo o nell'altro è sempre, insomma, o in televisione o sui giornali. Qui lo spunto gliel'ha offerto il senatore D'Anna, che per due volte in pochi giorni lo ha attaccato, lo scrittore, l'autore di Gomorra, dicendo che, insomma, la scorta a questo punto non sarebbe più così giustificata. Mario Calabresi ripercorre la storia di Roberto Saviano dalla pubblicazione di Gomorra nel 2008, che poi gli procurò molte minacce e anche la scorta. Trovate tutto il ricordo del legame di Mario Calabresi con Roberto Saviano dalla prima pagina, continua poi a pagina 27. Il Messaggero ha in prima pagina invece una bella foto, anche qui con un bellissimo sorriso, di Giorgio Albertazzi, che avrete sentito sicuramente, è scomparso ieri mattina E quindi poi se ne è parlato tutto il giorno ieri sui giornali, naturalmente tantissimi ricordi. Dario Fo, per esempio, ha affidato praticamente a tutti i quotidiani un ricordo del collega, e sono quasi coetanei, perché Dario Fo compie 90 anni. L'apertura vera e propria, però, anche in questo caso è dedicata ai migranti, le richieste dell'Unione Europea all'Italia. È arrivata infatti una lettera da Bruxelles che dice che le misure appunto italiane sono ancora insufficienti, ci vogliono più controlli e nuovi centri. Ma il ministro dell'Interno Alfano ha subito risposto: d'accordo, queste richieste sulla carta giuste, forse anche giustificate, ma l'Europa non ci aiuta, ed è la questione di cui si dibatte da tanti giorni, da tanti mesi, forse addirittura da anni, cioè che un paese da solo non può affrontare l'emergenza immigrazione. Anche il Messaggero parla di 13.000 soccorsi e non di 12.000 come dice la Repubblica. L'Avvenire titola sulla questione dei profughi, un po' perché l'Avvenire ha intervistato, parlando molto di questo argomento, il premier Matteo Renzi, e quindi il titolo in realtà è un virgolettato: profughi e famiglia, ecco che cosa farò. Ma anche perché ieri ne ha parlato anche il Papa della tragedia degli immigrati, dicendo questa frase semplice e terribile nella sua semplice verità, cioè che i migranti sono in pericolo, non sono un pericolo. E la foto dell'Avvenire è di Papa Francesco con in mano quel giubbotto di una che apparteneva a una bambina morta in mare vicino all'isola greca di Lesbo. La Gazzetta dello Sport questa settimana la citiamo un pochino prima, perché ovviamente anche lei, le foto dei due grandi eventi di ieri, e mi fa piacere che quello forse che ha più enfasi è quello di Nibali, Sua Altezza Nibali. Anche qui una foto dove in realtà Nibali bacia la sua maglia, quindi non si vede il sorriso, ma si vedono gli occhi, uno sguardo che dice tutto. Sua Altezza Nibali, quindi il titolo della Gazzetta, e subito sotto Sua Altezza Real. La Stampa, anche in questo caso vi dicevo interviste della domenica, qui il titolo viene da un'intervista fatta a Tommaso Nannicini, che è un sottosegretario all'economia e uno dei principali consulenti economici del Premier e del Governo. Il titolo, il virgolettato scelto per titolare questa intervista, che poi trovate a pagina 2 e 3, sconti fiscali ai redditi bassi per la pensione anticipata, uno dei temi di cui si è parlato molto nei giorni scorsi, cioè come organizzare il decurtamento della pensione per chi decide di andarci in anticipo sulla data prefissata dalla sua storia contributiva. Qui due le fotonotizie, una di nuovo Nibali e poi l'altra invece di Albertazzi, l'addio ad Albertazzi. L'Unità invece ha proprio una foto dedicata all'imperatore del teatro, quindi anche in questo caso a Giorgio Albertazzi. L'intervista invece alla vice segretaria del PD, nonché presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che dice possiamo vincere ma uniti, il riferimento è alle elezioni comunali che si terranno settimana prossima, sappiamo, in tantissime città italiane, anche se gli occhi poi sono puntati soprattutto su Milano, Roma, Torino e Napoli. Il titolo principale però è Ecatombe nel Mediterraneo, l'Italia da sola fronteggia l'operazione umanitaria nell'UE, anche in questo caso si parla di 13.000 salvati. Il Libero si scaglia contro la cosiddetta casta politica, perché il titolo è Vitalizia ai politici fino al 2060. I parlamentari si vantano di aver tagliato la loro previdenza, ma la riforma entrerà pienamente a regime, pensate, solo tra 44 anni. A oggi versano 48 milioni e ne incassano 193, e nessuno, né di destra né di sinistra, si scandalizza. Poi c'è un intervento del nuovo direttore di Libero, nuovo da circa 10 giorni, Vittorio Feltri, che, siccome è stato attaccato molto dicendo che insomma, ha perso un po' la sua anima di centrodestra, anzi addirittura alcuni retroscena nel paese, naturalmente dei retroscena dei complotti, lo vedono tornare a Libero dal giornale dove era editorialista, perché l'editore di Libero Angelucci, che ha anche un posto in Parlamento, avrebbe voluto fare questo favore a Renzi, perché il precedente direttore Maurizio Belpietro, di cui si vocifera tornerà a essere editorialista del giornale, appunto il precedente direttore Maurizio Belpietro sarebbe stato troppo contro il governo. E allora una risposta un po' in diretta di Vittorio Feltri: Libero rimane sempre di centrodestra, ma dov'è il centrodestra? Poi vi segnalo dalla prima pagina di Libero, è una vicenda che si trova anche su altri giornali, però solo Libero la mette in prima pagina. Io comunque trovo che nel suo piccolo è significativa. Sapete che ieri finalmente è tornato in Italia Salvatore Girone, uno dei due fucilieri di Marina accusati, che era in India dal 2012 perché è accusato di aver ucciso un pescatore indiano. E finalmente, grazie a una trattativa con la Corte internazionale dell'AIA, si è deciso che potrà aspettare la sentenza in Italia, e quindi appunto è rientrato in Italia dall'India. Ma 2 anni fa la famiglia gli aveva regalato un cane per rendere un po' meno, per alleviare un po' quella lontananza e naturalmente questa grande incertezza legale in cui ha vissuto per 4 anni. E però il cane si chiama Argo, è un Golden Retriever, non aveva i documenti in regola e quindi è rimasto lì, ma dovrebbe arrivare tra poco. E quindi l'articolo di Enrico Paoli: il Marò a casa, il suo cane in ostaggio. Il giornale ha un titolo ancora diverso che si concentra su Equitalia. Sapete che qualche giorno fa la sua newsletter online, Matteo Renzi, ha detto che entro il 2018 questa agenzia di riscossione dovrebbe chiudere, ma naturalmente dovrà essere sostituita da qualcos'altro perché le tasse non pagate in qualche modo vanno riscosse. In ogni caso il giornale titola "Fine di Equitalia". La società di riscossione cambia metodi, più facile rateizzare e saldare il proprio debito. Intanto il Premier riceve una cartella e scopre fuori tempo massimo l'incubo degli italiani, Equitalia per l'appunto. Ci fermiamo però un attimo per una pausa e sentiremo anche gli aggiornamenti sul bizzarro meteo di questi giorni. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine. Vi segnalo da quella del giornale, oltre al titolo "Fine di Equitalia", questa polemica di ieri, e ve la segnalo anche perché coinvolge Confindustria, che è il nostro editore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, perché ieri Berlusconi ha detto, appunto, si è rivolto a Confindustria dopo l'assemblea generale che c'è stata giovedì 26 e che ha eletto ufficialmente Vincenzo Boccia come nuovo presidente. Dice: siete degli aspiranti sudditi, dicendo che, commentando così il fatto che la Confindustria sia schierata, per esempio, per il sì al referendum che si terrà in ottobre sulla riforma costituzionale. Oltre a questo articolo di cronaca che riporta le critiche di Berlusconi, c'è un fondo di Piero Stellino, che lo ricorderete forse, ex editorialista del Corriere della Sera, passato ora al giornale, sempre molto critico verso il governo. E qui l'editoriale si intitola "Il silenzio degli imprenditori dopo l'endorsement di Boccia", che tra l'altro la parola endorsement, che appunto è una parola usata soprattutto in America, cioè quando un'istituzione o magari anche un giornale si schiera apertamente, in generale usato in politica, quindi per un governo. Non è stato un vero, non è stato, qui è usata a sproposito, nel senso che c'è stato appunto questa posizione per il sì al referendum, ma l'endorsement è un'altra cosa. In generale gli endorsement si fanno alla vigilia delle elezioni politiche. Ricorderete per esempio il famoso endorsement di cui poi ha sempre detto di essersi pentito, dell'allora direttore del Corriere della Sera, direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli, per un governo del PD. Insomma, quello è l'endorsement, cioè alla vigilia di elezioni politiche. Ma insomma, questa era una polemica che forse ci trascineremo anche nei prossimi giorni. La prima pagina del Manifesto: il girone infernale. E la foto è la foto scattata da alcuni immigrati che durante un'operazione di soccorso al largo delle coste libiche, che cercano appunto, si vede, tendono le mani verso chi ha scattato la foto, ma più presumibilmente verso chi li stava soccorrendo, e il riferimento naturalmente a questi dati sui salvataggi degli ultimi 6-7 giorni, con un numero che oscilla, abbiamo visto, tra i 12.000 e i 13.000. Il Fatto Quotidiano, la foto è dedicata a Papa Francesco con quel giubbotto in mano di cui abbiamo parlato prima. Migranti, governo impreparato e la bomba gli esplode in mano. Qui addirittura si parla di 15.000 sbarchi e 500 dispersi. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali e torniamo al Sole 24 Ore. oltre naturalmente agli approfondimenti di cui abbiamo detto che trovate sulle scadenze fiscali del 16 giugno, anche a pagina 5 un lungo articolo di Moira Longo, La finanza riscopre l'economia reale, il lato buono dei tassi zero. Sapete che in questo momento moltissimi fondi pensione, tutti i buoni del tesoro dei vari stati hanno dei rendimenti bassissimi, però appunto il lato buono dei tassi zero, ci racconta Moria, investitori a caccia di rendimenti fra infrastrutture e asset alternativi. La prima pagina del dorso di Imprese e Territori ha un aggiornamento su quello che sta succedendo a Taranto, all'Ilva, di cui una vicenda di cui si è parlato tanto nei mesi scorsi, poi è un po' sparita, ma naturalmente è sparita dalle cronache ma non dalla realtà. E quindi Domenico Pagliotti ci racconta: nuovo caso giudiziario per l'Ilva. Il GIP respinge la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura sul nuovo filone dell'inchiesta inquinamento. E appunto c'è questo primo articolo di cronaca e poi un altro intitolato Un altro capitolo di una storia infinita. La prima pagina del Finanza e Mercati, dedicata a quell'operazione richiamata anche in prima pagina, che dicevamo l'offerta pubblica di scambio della Caro Communication per il gruppo RCS, via libera della Consob, ce lo racconta Antonella Olivieri, nel piano perché tra l'altro contestualmente alla presentazione di questa OPS è stato anche presentato da Caro Communication un piano per il rilancio di RCS, 140 milioni di risparmi entro tre anni e strategie per l'aumento dei ricavi. E poi c'è anche invece uno schema che riassume chi sono i grandi soci di RCS Media in questo momento, e poi il commento di Carlo Festa: Piazza Affari sconta un rilancio. Ora, quando domani aprirà la borsa, vedremo un po' la reazione appunto della borsa, si guarda le mosse di Bonomi, perché dicevamo il finanziere guida l'altra cordata per rilevare RCS Group. A proposito di tassi negativi, a pagina 21 trovate un articolo di Robert Sydeski, un economista, membro della Camera del Lord del Regno Unito, professore emerito di economia politica. Il titolo è La falsa promessa dei tassi negativi. E anche qui, appunto, il tasso negativo in sé, di cui parlava anche Moira Longo, per fare un confronto con, per esempio, titoli azionari che sicuramente tassi negativi non hanno e che quindi vengono ricercati dagli investitori. Qui, appunto, Robert Sydeski, aiutano nell'immediato, ma possono distrarre i governi dall'attuazione delle riforme. Passiamo alle pagine interne del Corriere della Sera, anche in questo caso di Libia. Anche la Libia, quasi appunto la vedete nei giornali di questi giorni, non c'è, ma la Libia è lì con tutti i suoi problemi, la sua guerra civile. Alla pagina 15 del Corriere della Sera, due articoli, uno di Marta Serafini e uno di Viviana Mazza. Per esempio, Marta Serafini ci racconta le esecuzioni a Sirte, con questa pratica barbara dell'ISIS che non solo porta avanti queste esecuzioni, ma poi le filma e le mette anche in rete. C'è una curiosità, forse l'avete, io l'ho visto su Twitter, credo ieri, forse conoscete la famosa manovra Heimlich, quella che è inventata da questo medico americano che è del 1920 adesso è in una residenza per anziani, perché di anni quindi ne ha 96, e la sua manovra è quella che permette, ci si mette dietro la persona che ha in qualche modo un soffocamento o non riesce a respirare in generale perché appunto ha ingoiato qualche cosa, permette di far uscire ciò che impedisce la respirazione e quindi salvare la vita. Però lui questa manovra l'ha inventata ma non l'aveva mai usata, era in una casa di riposo e ieri ha avuto l'occasione di salvare un'anziana usando per la prima volta la sua manovra, che tra l'altro viene spiegata con quattro disegni molto chiari a pagina 23 del Corriere della Sera. Vi dicevo la polemica di Berlusconi, trovate questa polemica anche a pagina 6 di Repubblica. Berlusconi attacca Confindustria per l'ok al referendum di ottobre. Qui c'è un'intervista a Alberto Bombassei, che è anche stato vicepresidente di Confindustria, e il titolo è Accuse incomprensibili, le sue novità, cioè sue di Berlusconi, chi le ha viste? Sapete che insomma Berlusconi aveva fatto molte promesse, come adesso accusa Matteo Renzi di farne altrettante, però Berlusconi aveva fatto molte promesse a tanti stakeholders, industriali compresi. E appunto Bombassei gli risponde che tutto sommato è stato negli anni del suo governo, nei tanti anni del suo governo, anche da lui sono venute molte delusioni. A proposito di paesi di cui si parla così, a corrente alternata, potremmo dire, la Repubblica invece ha un bellissimo reportage di Vanna Vannuccini dall'Iran, musica e cellulari su Instagram, il vero volto dell'Iran. Due fotografi italiani vengono conquistati dalle foto messe in rete dai giovani di Teheran e decidono di raccoglierle. Ne esce una collezione che racconta la realtà di un paese troppo spesso avvolto dagli stereotipi. L'articolo naturalmente è corredato da molte di queste foto. Dalla pagina interna del Messaggero un aggiornamento sulle primarie americane. Ormai Trump sarà sicuramente il candidato repubblicano, perché ha raggiunto il numero di delegati in questo lungo percorso, che forse avrete seguito, è molto complicato da capire per un non americano. In ogni caso non avete potuto non sentire gli aggiornamenti. Insomma, in ogni stato ci sono state questi incontri che poi hanno dato ai vari candidati dei due partiti un certo numero di delegati. Bisogna arrivare alle convention dei due partiti con un numero per avere ufficialmente la nomination. Trump l'ha già raggiunto, non così Hillary, che continua a sentire la concorrenza di Bernie Sanders. Il titolo del Messaggero: Caos Trump, risse e arresti al comizio, perché per l'ennesima volta durante un comizio, questa volta a San Diego, ci sono stati appunto dei disordini e scontri con la polizia, risultato 36 fermati e 18 feriti. La Stampa ha un'inchiesta sul rapporto non sempre felice, lo sappiamo, degli italiani con le banche. Alle pagine 4 e 5, irregolarità e tassi usurari, raddoppiati contenziosi tra i clienti e le banche. In 4 anni, 400.000 transazioni, una babele di sentenze, ma a difesa dei consumatori c'è un boom di aziende poco affidabili che appunto si incaricano di difendere i consumatori. Poi una bella storia, ce la racconta Leonardo Martinelli, che per tanti anni è stato collaboratore del Sole 24 Ore, ma spesso sentite anche qui a Radio 24, a Parigi, e ci racconta la storia di Amorino, che è questa catena di gelati, quindi non solo Grom, c'è anche Amorino tra le catene di gelati artigianali. I fondatori sono Cristiano Sereni e Paolo Benassi, originari di Reggio Emilia. La prima gelateria a Parigi l'aprirono nel 2002 e ora ne hanno 150 nel mondo. Dall'Emilia a Parigi, la favola dei gelatai che conquista il mondo. A proposito di un altro paese di cui addirittura se ne parla ancora meno che rispetto ad altri, all'Avvenire si concentra sull'India, perché in India in questo momento c'è una siccità che poi causa, come sempre accade quando ci sono siccità o carestie, anche violenze. Carestia per 330 milioni di persone, contadini suicidi per i debiti. La pagina degli esteri dell'Avvenire, che è la 17. E poi un bell'articolo sempre sull'Avvenire, perché dal 2 al 4 giugno a Bose si terrà un convegno che si occupa di architettura sacra. Beh, noi in Italia abbiamo tante di quelle chiese, ma spesso sono antiche, però se ne costruiscono anche di nuove. Quindi il titolo dell'articolo: Nuove chiese, lo stile è condivisione. La foto è una chiesa disegnata da Cino Zucchi a Sesto San Giovanni, e si parlerà appunto di questo dal 2 al 4 giugno a Bose. Dall'Unità vi segnalo una lunga intervista di Chicco Testa, che non è un giornalista, però si è divertito a fare questa intervista a Gigi Buffon, naturalmente portiere della Juventus e portiere della Nazionale. Ci sono le tipiche ingenuità del non giornalista, per esempio tre volte non so che lui dice... fa una domanda che a Buffon piace e Buffon risponde: bella domanda. Ce lo sentiamo dire spesso, ma in generale non lo scriviamo perché suona un po' di autoelogio. Dovremmo sempre cercare di fare delle belle domande. In ogni caso è interessante, su due pagine, la 20 e la 21, il titolo scelto per questa intervista, un virgolettato: la vita ho imparato a pararla con i miei sbagli, dice Buffon, che ripercorre appunto un po' la sua carriera, ma anche la sua vita, le tappe più importanti. L'ultima segnalazione che vi faccio, sempre a proposito, prima della pausa, sempre a proposito di questioni di cui ci si occupa a intermittenza, sul Manifesto, ad Atene c'è stato un vertice tra Tsipras, il premier Tsipras, e il presidente della Russia Putin, il vertice che consolida un'alleanza sempre più strategica. Il titolo: Putin e Tsipras a tutto gas, perché sono stati stretti alcuni accordi che riguardano l'energia. Un attimo di pausa per le informazioni sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, abbiamo un pochino più di tempo oggi per guardare i supplementi della domenica e cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi che parte da una citazione di Antonio Gramsci. Il titolo del breviario è Latino e greco e la citazione è questa: non si impara il latino e il greco per parlarli, per fare i camerieri, gli interpreti, i corrispondenti commerciali, si impara per conoscere direttamente la civiltà dei due popoli, presupposto necessario della civiltà moderna, cioè per essere se stessi e conoscere se stessi consapevolmente. E scrive Ravasi: tra le mie varie funzioni presso la Santa Sede c'è quella di tutelare la Pontificia Accademia di Latinità, un'istituzione che coopta i maggiori studiosi di questa lingua. Ho in tal modo scoperto quanto forte, soprattutto all'estero, sia la passione per una cultura così alta che continua a vivere proprio attraverso la sua eredità. Agli italiani, e in primis alla scuola che invece la snobba, vorrei semplicemente ricordare le righe sopracitate, che non hanno bisogno di commento ma solo di riflessione. Non le ha scritte un vecchio precettore, ma Antonio Gramsci nel 1932 nei suoi quaderni dal carcere, per ammonirci che chi non conosce il proprio passato non riesce a vivere il suo presente in modo vero ed efficace. Il memorandum invece del nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, raccoglie alcune delle lettere che ha ricevuto dopo l'intervento di domenica scorsa, che si intitolava La voglia di riscatto dei giovani, le cose difficili e il capitale di fiducia. Sono tre lettere a cui poi il titolo generale della rubrica è Storie belle e amare di un'Italia che vuole rialzare la testa, e poi Roberto Napoletano appunto risponde da una risposta a queste lettere, incitando comunque sia chi le ha scritte a non perdere la fiducia, ma poi soprattutto chi deve ascoltare per ridare la speranza a giovani e meno giovani che questo paese possa davvero avere una svolta, appunto ricordare che queste voci vanno ascoltate. Il titolo vero e proprio della copertina è dedicato a un intervento di Renzo Piano, Perché difendo le periferie. Questa, come forse sapete, è un po' l'ultima battaglia, la più recente battaglia di questo grande architetto italiano che ha vinto anche il premio Pritzker, che è il Nobel per l'architettura. Si dedica con questo progetto che si chiama G124, dal nome della stanza che ha al Senato come senatore a vita, alle periferie. E tra l'altro è un tema che è uno dei temi della Biennale di Architettura che si è appena aperta a Venezia, e tra l'altro proprio ieri Matteo Renzi, il Premier, ha annunciato proprio a Venezia che uno stanziamento di nuovi fondi per appunto riqualificare le periferie. Vi leggo le ultime righe dell'intervento di Renzo Piano. È possibile una periferia migliore? Risposta: certo che è possibile, basta andare a Marghera, che come sapete è la periferia di Venezia, dove sono appena stato per un sopralluogo con G124, per capirlo. C'è già una periferia migliore, negli ultimi 20 anni questo quartiere ha fatto passi da gigante. Come scriveva Italo Calvino, anche le più drammatiche, le più infelici tra le città hanno sempre qualcosa di buono, quel qualcosa dobbiamo però scoprirlo e alimentarlo, e così avremo città migliori. E poi vi segnalo dalla pagina 31 del Domenicale una bella storia raccontata da Andrea Kerbacher, un doppio anniversario, perché 70 anni fa nascevano Neri Pozza e Longanesi, le due case editrici fondate appunto da Neri Pozza e Longanesi, opposte per orientamento politico e ideologico, ma con una storia ricca di analogie e parallelismi, Il resistente e l'anarchico di destra, il titolo dell'articolo. Passiamo magari velocemente anche un po' agli altri supplementi. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, dedica la copertina affida la copertina a un artista, in questo caso è Odili Donaldo Dita. E poi vi segnalo subito dalle pagine 2 e 3 un gustosissimo articolo di Francesco Piccolo, Dalla parte del male. Abbiamo parlato di Gomorra, dell'intervento di Mario Calabresi, direttore di Repubblica, a difesa dell'autore di Gomorra, Roberto Saviano, che sapete anche co-sceneggiatore delle due serie televisive, prima del film di Matteo Garrone e poi delle due serie televisive che si ispirano un po' al suo libro Gomorra. Queste serie TV sono state molto criticate, da una parte elogiate come prodotto televisivo, ma anche criticate perché in qualche modo, secondo alcuni, mitizzerebbero la Camorra e i suoi eroi negativi. E allora Francesco Piccolo dice: dalla parte del male, Gomorra, Scarface, Frank Underwood, naturalmente il protagonista della serie americana, il fascino dell'eroe negativo, fu Hitchcock a svelarne il meccanismo. La questione si ripresenta ogni volta che una serie TV o un film mettono in scena un cattivo di successo. C'è una debolezza etica dell'attualità? È l'unico modo di parlare del presente? È giusto? E appunto ce lo racconta Francesco Piccolo. Frank Underwood, la serie naturalmente è House of Cards, di cui tutti, magari tutti ne abbiamo visto almeno qualche episodio. Un bell'articolo di Serena Danna, pagina 15, invece dedicato al gossip. L'altro giorno io, quando vado in un edicola, chiedo sempre: ma cosa si vende di più? E in generale la maggior parte degli edicolanti e delle edicolanti mi rispondono: i giornali di gossip. Ecco, allora per esempio Serena Danna lo indaga a partire da un'intervista che ha fatto con Bill Clegg, che è uno degli più importanti agenti letterari d'America, che ha pubblicato un'opera di fantasia che racconta come le piccole comunità condizionino l'esistenza delle persone. Il gossip crea la verità nei romanzi e nella vita. E poi, visto che si è parlato molto di Rousseau, perché sapete che così si chiama anche la piattaforma della Casaleggio e Associati che gestisce la comunicazione praticamente del Movimento 5 Stelle, troppi Rousseau, ci racconta Daniele Giglioli, sempre sulla lettura. Si moltiplicano i richiami al filosofo francese, additato a esempio di trasparenza e rigore, ma così facendo ci si allontana dal cuore del suo pensiero, che era intrinsecamente contraddittorio e che un secolo prima di Nietzsche e Max Weber mostrò l'origine infondata e irrazionale di ogni istituto razionale. La Repubblica, la copertina della domenica, la domenica di Repubblica, anticipa la festa della Repubblica, che sarà giovedì prossimo, il 2 giugno. Sono 60 anni, perché 2 giugno 1946, 2 giugno 2016, è una giornata molto particolare, molti ricordi di questa giornata, di chi c'era, ma anche magari solo di chi l'ha commentata dopo. Non poteva mancare naturalmente Eugenio Scalfari, direttore fondatore, ex direttore fondatore di Repubblica, ora editorialista. Quindi una giornata molto particolare nel ricordo di Eugenio Scalfari e di chi come lui aveva poco più di 20 anni, 70 anni fa. Ma molti altri, anche gli articoli, i commenti, li trovate nelle 6 pagine successive della Repubblica. Poi un bellissimo excursus di Raffaella De Santis sui libri che riguardano l'arte, che si indirizzano ai bambini. Piero della Francesca e Duchamp spiegati ai piccoli, manuali che insegnano a guardare i quadri, la storia di Frida Kahlo raccontata come una fiaba. Tra libri e laboratori, il mondo dei musei sarà salvato dai ragazzini, e il titolo è L'arte bambina. Per la serie invece di interviste Straparlando di Antonio Gnoli, sempre corredati da un bellissimo ritratto di Riccardo Mannelli, anche questa domenica è così. Piero Rattalino, che forse non è conosciutissimo, però è nato in Piemonte nel 1931, è un grande pianista e musicologo italiano, titolare per anni della cattedra appunto di pianoforte al Conservatorio di Milano. Il titolo dell'intervista: dopo una vita nella trincea della musica sono rimasto soltanto un divulgatore, soltanto naturalmente tra virgolette, perché la divulgazione può essere una nobilissima arte di qualsiasi cosa si voglia divulgare, scienza, musica, letteratura, qualsiasi cosa. Macro, il supplemento del Messaggero, invece dedica la sua copertina a un fumettista egiziano, il fumetto contro il regime. Magdi Al-Shafee, padre della prima graphic novel egiziana, racconta la difficoltà che i disegnatori incontrano con la censura nel suo paese. Molte volte ho pagato per frasi pronunciate dai miei personaggi, ma questa è la strada, una risata li sconfiggerà. Come potete immaginare, anche sul Messaggero tantissimi ricordi di Albertazzi, come su tutti i giornali. Ma vi segnalo, anche perché se ne è parlato anche qui a Radio 24 spesso, la questione della SIAE, degli artisti che la stanno lasciando, questa società che gestisce i diritti di autore. Il caso dopo Fedez è quello di Gigi D'Alessio, e a pagina 25 del Messaggero si spiega perché. Ultima segnalazione, Alias del Manifesto, il supplemento domenicale del Manifesto, che ha sempre delle recensioni, così potremmo chiamare vecchio stampo, perché sono quasi sempre, tutta la prima pagina è un'unica recensione. Questa settimana è un libro appena uscito da Einaudi intitolato Un raccolto d'oro di Jan Thomas Gross, che documenta con Irena Grudzinska Gross i saccheggi dei lager e le vessazioni sugli ebrei da parte di una popolazione anch'essa vittima dei tedeschi. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.